vicino al mare, azzurro io vedo lì tra le onde un delfino e mi avvicino un po' e esce dalle acque e sembra più vicino accanto a me. Gli dico ciao, come ti chiami? Mi risponde che la sua famiglia è in pericolo. Un batterio sta devastando noi. E poi se ne va e si allontana anche da me, che lo cerco un po', ma è già andato via. Più in là, laggiù, l'acqua sta diventando sempre più petrolio che sta divorando tutto che si trova avanti e non lascia ormai più niente intorno a sé. Questa terra sta subendo ogni distruzione, è un'epidemia che spazza tutto via, è cieca, io non posso più. Io non posso più guardare, no, non posso più. E io urlo alla gente, qui c'è tanto azzurro, una conchiglia sta in riva al mare. Siamo nati un giorno. Qui c'è tanto azzurro, una conchiglia sta in riva al mare.